Sezione 6 di Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Simona Perego. Sulladda. Corri tra rose i fuochi del vespero, corri, addua cerulo. Lidia sul placido fiume e il tenero amore al sole occiduo naviga. Ecco, ed il memore ponte dilungasi, cede l'aereo degli archi slancio, e al liquido s'agguaglia, pian che allargasi e mormora. Le mura di rute di lodi fuggono arrampicandosi nere al declivio verde e al docile colle. Addio, storia degli uomini. Quando il Romuleo Marte ed il barbaro ruggir ne ferre i cozzi, l'indice la rabbia di Milano, arse in Italia incendi. Tu ancora dall'Ario verso l'Eridano scendevi, o Addua, con desio placido, con murmure solenne, giù per taciti pascoli. Quando sul dubbio ponte tra i folgori passava il pallido corso, recandosi di 2 secoli il fato nell'esile van giovine, il molto celtico sangue e il teuto non lavavi, o Addua via. Sulle tremule acque il nitrico fumo putido disperdeasi. Moriano gli ultimi tuon della folgore franca nei concavi seni. Volgeasi dai limpidi lavacri il bue candido, attonito. Ov'è or l'aquila di Pompeo? L'aquila ov'è dell'ispido sir di Soavia e del pallido corso? Tu corri, o addua cerulo. Corri tra rose i fuochi del vespero. Corri, addua cerulo. Lidia sul placido fiume e il tenero amore al sole occiduo naviga. Sotto l'olimpico riso dell'are la terra palpita. Ogni onda accendesi e trepida risalta di fulgidi amor turgida. Molle dei giovani prati l'effluvio va sopra l'umido pianna. L'acque a margini di gemiti e sorrisi, un suon morbido frangono. E il legno scivola lieve. Tra le ube risponde lo splendido fiume devolvesi. Trascorrono dei campi i grandi alberi. E accennano. E giù dagli alberi, su dalle floride siepi, per l'aure strisce e le rose, si inseguono gli augelli e amori la rimescono. Corri tra rose i fuochi del vespero, corri, addua cerulo. Lidia sul placido fiume naviga e amore d'ambrosia irriga l'aure. Tra pingui pascoli sotto il sole aureo, tu con l'Eridano scendi a confonderti. Precipita l'occaso il sole infaticabile. O sole, o addua corrente, l'anima per un Elisio dietro voi naviga, ove ella il mutuo amore, o Lidia, perderannosi? Non so, ma perdermi lungi dagli uomini amo or di Lidia nel guardo languido, ove nuotano ignoti desideri e misteri. Fine della sezione 6.